English 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Per questo nuovo appuntamento con la lingua inglese incontriamo un regista molto famoso e molto amato, un regista americano che tra l'altro ritroveremo anche sulle pagine del nostro English 24 in edicola. Si chiama Barry Levinson. Io non so, posso dirvi un titolo: Rain Man, un film famosissimo, molto amato, ma anche più di recente un film che si chiamava Man of the Year, l'uomo dell'anno, e tra poco sentiremo proprio Barry Levinson che ce ne parlerà. Un film da attualità in un certo senso, perché parlava dell'elezione di un presidente degli Stati Uniti avvenuta in maniera un po' particolare. Ma Barry Levinson ultimamente si è dedicato anche dei documentari. Abbiamo parlato con lui di questo documentario che si intitola Pollywood, non a caso, un documentario sulle convention democratica e repubblicana. Sentiamo. It was an interesting 2 weeks, that's for certain. I mean, because the two conventions are completely different from one another. The Obama convention, there was real passion that you can feel by the people who attend it, and the Republican convention was much closer. If it were like, you know, sort of like an insurance, you know, company had a big meeting. They're very different from one another, and so that was it was fun to see the two sides. I just did a first cut of it, and we'll have to see, you know, we'll see what it is. We'll see if it's whether it should be for television, you know, I don't know. You know, the documentary world is a precarious world in itself. In questo Pollywood ci sta la politica, ma anche Hollywood, perché lui è andato a curiosare nelle convention democratica e repubblicana, diciamo andando anche a vedere l'impatto di alcuni artisti sul popolo che appunto frequentava queste convention. 2 settimane, lui dice, molto interessanti. It was an interesting 2 weeks, quindi notate che sono 2 settimane, noi appunto diciamo sono state 2 settimane interessanti, invece qui c'è il singolare, cioè è stato un periodo, come sottointeso, di 2 settimane interessanti, quindi it was an interesting 2 weeks, sottointeso period. That's for certain, questo è sicuro. E con quest'occhio da regista che ha avuto Levinson sulle due convention, le ha subito divise e dice they were very different from one another, quindi una era molto diversa dall'altra, diciamo noi. Cosa avevano di diverso, in particolare per quanto riguarda le persone che ha incontrato? Sì, sulla carta, insomma, il giudizio, diciamo che è quasi ovviamente pro quella democratica, no? Perché lì c'era la real passion. E lui dice, Levinson, you could feel by the people who attended. Quindi potevi sentire dalle persone che erano state lì, quindi the people who attend, che c'era questa passion. E poi il confronto. E qui lui cerca di smorzare usando tutti questi like, you know, sort of like, che è veramente pleonastico, per dire poi alla fine che invece quella repubblicana era sort of like an insurance company had a big meeting, quindi come se una compagnia di assicurazioni, perché insurance è assicurazione, mentre assurance è l'assicurazione, ma nel senso non di contratto di assicurazione, ma di assicurazione verbale, di qualsiasi altra cosa, quindi had a big meeting, come un, insomma, e abbiamo tutti un'immagine dell'assicuratore che non è lontano dalla passione, ecco. Poveri assicuratori, si arrabbieranno con noi. Al di là di questa similitudine trovata da Barry Levinson, c'è il problema, non sappiamo ancora quando lo vedremo e come lo vedremo questo Pollywood. Sì, perché lui dice, naturalmente, chissà, immaginiamoci quante ore di filmato poi ci sono, e se se ne deve ricavare un documentario di una certa lunghezza, lui dice I just got a first cut of it, quindi gli hanno appena dato un cut, cioè un montaggio sostanzialmente, ma anzi probabilmente quello che qui alla radio voi, Marta, chiamate un grezzo, quindi chissà poi quanto lavoro ci deve ancora essere. Infatti lui dice we'll have to see, you know, vedremo. Tra l'altro dice sul documentario tutto quello che dicono gli altri registi, insomma non è facile fare i documentari. Dice appunto documentary world, quindi il mondo dei documentari, it's a precarious world in itself. È comunque un mondo molto precario, perché come sappiamo, insomma, è molto difficile convincere i distributori a dare a un documentario la stessa distribuzione e dignità che danno a un lungometraggio normale. Abbiamo citato poco fa Man of the Year, l'uomo dell'anno. C'era Robin Williams, che era una sorta di comico televisivo che diventava presidente degli Stati Uniti quasi per caso, grazie alla sua campagna mediatica, anche grazie a un errore del sistema. Ma c'è stato qualcosa, secondo Barry Levinson, che ha ritrovato in questa campagna mediatica del film nella campagna elettorale americana vera? Well, I mean, that someone basically who came from out of the unknown, in a sense, you know, I mean, even though he was a senator. but he was a there will always be, not always, every so often there will be someone that emerges with a very strong ability to communicate that that happens in American, you know, politics. So that's always sort of fascinating. And then, of course, I heard a few things in the campaign that it's actually in Man of the Year. But well, there's a line in the movie when Robin Williams said, you know, there are no red states or blue states. There's only the United States of America. And that's a line in the campaign, actually. Molto gentile peraltro Barry Levinson, questo signore del Maryland, che pur essendo un regista molto famoso è anche tranquillo, simpatico, molto alla mano, e ha spiegato in maniera molto semplice quali sono state le analogie che lui ha riscontrato una volta che ha visto la campagna elettorale vera dopo aver fatto il film sulla campagna immaginaria. Sì, e naturalmente parla di Obama e dice, certo, even though he was a senator, quindi anche se, though è un modo per dire se, ed è scritto in modo molto complicato, ma si pronuncia così, though, perché è scritto THOUGH, e tra l'altro molto spesso gli americani lo abbreviano in THO quando lo scrivono. Però dice, è vero, era un senatore, ma dall'altra parte he came from out of the unknown, cioè è arrivato dal, noi diremmo dal nulla, unknown, da una terra sconosciuta. È vero, moltissime persone al di fuori dello stato dell'Illinois di cui era senatore conoscevano Obama. E come il comico di Man of the Year, aveva una capacità molto precisa, quella di comunicare. Secondo Levinson, appunto, l'ha documentato nel suo film, è questo il punto, che all'inizio dice always, poi si corregge e dice but not always, every so often, altra espressione americana che vuol dire ogni tanto, quindi ogni tanto, someone who emerges with a very strong ability to communicate, quindi emerge qualcuno con questa grande abilità ed è qualcosa che happens in the American politics, you know, e succede, è riscontrabile, è successo in passato e Obama è soltanto l'ultimo esempio. Tra l'altro lui ha notato una cosa molto buffa, una line che non è una linea ma è una battuta, che ha trovato nella campagna elettorale vera e che c'era davvero nel suo film. C'è, perché lui ricorda There's a line of Robin Williams, quindi del protagonista, dove Robin Williams dice There are no red states or blue states. Sapete che il blu è il colore dei repubblicani, il rosso quello dei democratici, quindi vi ricordate queste mappe dove si venivano assegnati i colori a mano che gli stati venivano assegnati o a Obama o a John McCain, e Robin Williams invece dice There's only the United States of America. E questa, it's actually a line in the campaign, quindi una battuta della campagna, una battuta del film e una battuta della campagna elettorale. Actually, quindi veramente. Sì, non attualmente. Cosa cambierà a Hollywood con Barack Obama? Era impossibile non chiederlo a Barry Levinson. It's a hard question to answer in my mind. He has an awesome task. I mean, we have economic issues that are which are global, you know, there are social issues that have been neglected for way too long. We have an educational system that is in terrible disarray. We have a healthcare system that really almost is non-existent. How does Hollywood fit into this? I don't know. I think there's so many other issues. And, of course, whenever things are happening, you know, that may affect the social condition in one way or another, it will ultimately affect Hollywood in some fashion. How? I don't know. I couldn't be specific. Domanda inevitabile da porre a un regista anche impegnato come Barry Levinson, ma la risposta non era così semplice. E lui anche in questo è molto, come dicevi tu, molto umile nel senso migliore del termine, cioè ammette it's a hard question to answer in my mind, quindi sostanzialmente è una domanda hard, duro, ma vuol dire anche difficile in questo caso, sostanzialmente io non ho una risposta. He has an awesome task. Questo awesome si trova spesso nei nostri servizi che ascoltiamo a English 24, nelle interviste. Letteralmente O è il, che è scritto AWE, è qualche cosa che ti fa aprire la bocca dallo sgomento. Quindi può essere bello, ma anche terribile, grandissimo, enorme, come appunto è il task, cioè il compito che spetta Obama per risollevare il paese, per risolvere i vari problemi dell'America. In particolare, insomma, qualcosa Barry Levinson cita. Sì, questo è sicuramente un esame molto conciso, però anche molto vero. Ci sono gli economic issues e quelli, lui dice, sono globali. They are global, quindi. Poi ci sono i social issues e qui si trapela che probabilmente lui per Obama ha votato, perché dice which have been neglected way too long, che sono stati negletti, che sono stati ignorati, diremmo noi, way too long, per fin troppo tempo. Questo naturalmente si riferisce alle due amministrazioni precedenti. Problemi anche sull'educazione e sulla sanità. Sono le due grosse cose, anche argomenti di campagna elettorale, quindi education system in disarray. Disarray vuol dire in disarmo, quindi un disastro di sistema educativo, e healthcare that is almost non-existent. Sapete che negli Stati Uniti non esiste il sistema sanitario nazionale come lo conosciamo noi, esistono solo le assicurazioni private e chi non ce l'ha sostanzialmente non può curarsi. Lui perlomeno dice almost non-existent, sì. Quasi. Lui cerca di smussare i toni e si chiede how does Hollywood fit into this. Quindi to fit into something vuol dire cosa c'entra o come si pone o qual è il posto di Hollywood into this, cioè in questo quadro. E a un certo punto lui, da regista anche impegnato se vogliamo, dice whenever things are happening, tutto quello che succede, soprattutto le social condition, one way or another in the end will affect Hollywood. Cioè in qualche modo, in un modo o nell'altro, riguarderanno Hollywood, come lui con semplicità dice. How? I don't know, I couldn't be more specific, mi dispiace, non riesco a essere più preciso, specific appunto non specifico ma preciso, perché so che succederà ma non ho la bacchetta, non ho la sfera di cristallo, non so come. Però lo sapremo sicuramente coi prossimi film di Barry Levinson, perché sicuramente lui andrà un po' a toccare ancora una volta non solo la sfera privata ma anche la sfera pubblica degli americani. Vi lasciamo per questa settimana, Barry Levinson lo troverete anche nelle pagine del nostro English 24 in edicola. Ringrazio Valeria Bernardi in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'auguro di una buona serata.